Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro undicesimo, versi 583-795. Libro dodicesimo, versi 1-115. Per quanto Alcione, sua moglie peraltro amatissima, lo supplichi di non andar per mare, Ceice si è imbarcato in rotta per il santuario di Claro in Lidia e una spaventosa burrasca lo ha travolto. Alcione continua ad aspettarlo e prega Giunone che le faccia tornare lo sposo amatissimo. Ma la dea non tollera suppliche per un morto ed a stornare dai propri altari mani contaminate dal lutto convoca Iride e dice: «Fedelissima mia portavoce, vola immediatamente alla torpida reggia del sonno e ingiungigli di spedire ad Alcione in sogno una immagine del suo Ceice cadavere che sappia la verità». Raccolto l'ordine, Iride veste i suoi mille colori e, tracciando nel cielo la parabola immensa di un arco, raggiunge la casa del re nascosta dentro una nuvola. C'è vicino al paese dei Cimmeri una grotta profonda in un monte cavo, sacrario e palazzo del sonno indolente, cui i raggi del sole non hanno accesso né all'alba né al mezzo del giorno né sul tramonto. Un nebbione impastato di bruma esala dal suolo il chiarore d'un qualche crepuscolo spento. Lì non c'è l'uccello con tanto di cresta che chiama cantando l'aurora, lì non ci sono cani allerta che rompono il silenzio abbaiando, né oche più allerta ancora dei cani, non una belva si sente, non un gregge, non una frasca agitata dal refolo, non cicaleccio di voci di uomini, impera un muto torpore. Però da una crepa profonda della roccia un rivoletto di lete si versa frusciando su un letto di sassolini, mormorio che concilia il sonno. Davanti alla porta dell'antro è tutta una gran fioritura di papaveri ed erbe tantissime, i cui succhi l'umida notte sceglie e spreme a diffondere il sonno sulla penombra del mondo. Non c'è una porta a evitare il cigolio dei cardini, non una in tutto il palazzo e non una guardia all'ingresso. In mezzo all'antro troneggia un letto d'ebano, piume, cuscini d'un solo colore, copriletto nero su cui sta sdraiato il dio in persona, spossato dall'indolenza. Tutto intorno si accucciano a caso i sogni vani che simulano le forme più disparate, numerosi come le spighe della messe, le foglie del bosco, i granelli di sabbia in spiaggia. Entrata la Vergine e fattasi largo fra i crocchi dei sogni, sgomitando, tutto il palazzo si illumina per il fulgore della sua veste, ma il dio fatica a scollare le palpebre pesantissime e gli ricasca il mento, egli ricasca sbattendogli contro la parte superiore del petto, finché dai e dai non riesce a sgrullarsi da sé, si appoggia sul gomito, la riconosce e le chiede che cosa è venuta a fare. E lei: «Sonno, quiete del mondo, il più dolce di tutti gli dèi, pace dell'anima che metti in fuga le ansie, che sedi la stanchezza dei corpi provati e li attrezzi a nuove fatiche, disponi che un sogno in grado di imitare al vero qualsiasi forma si rechi a Trachine e nei sembianti del re appaia ad Alcione sua moglie con i tratti d'un morto annegato. Ordine di Giunone». E assolto il proprio mandato, Iride va, non potendo sopportare ancora per molto il torpore e sentendo scolarle il sonno per tutto il corpo, se la squaglia e rimonta l'arco lungo il quale era arrivata. Nel popolo dei suoi figli, Padre sonno, uno ne sveglia, imitatore provetto delle figure dell'uomo, Morfeo. Nessuno meglio di lui riproduce andature, lineamenti, il timbro preciso delle singole voci. Di più, sa rifare i vestiti di questo o di quello e i modi di dire di quello o di questo. Però copia solo gli umani, laddove ce n'è un altro che simula belve, uccelli o serpenti lunghissimi. Gli dèi lo chiamano Icelo, la povera gente Fobetore. C'è poi un terzo che si segnala per tutt'altra specialità. Si cambia infatti benissimo in terra, in macigno, in onda, in tronco e in tutte le cose inanimate che vuole. E ce n'è che appaiono di notte ai generali e ai re, altri che invece frequentano la gente del popolo. Tutti il vecchio dio sonno li lascia dove stanno e fra tanti figlioli sceglie appunto lui solo, Morfeo, per eseguire i disposti di Iride. Poi torna a sciogliersi nel più soffice dei languori, reclina la testa e si caccia sotto il coltrone del letto. E Morfeo vola dentro le tenebre, con ali che fare non fanno rumore alcuno e in un batter d'occhio ha già guadagnato la città dei Tessali, dove, deposte le penne, si muta in Ceice e con il sembiante di Ceice, giallastro come i cadaveri, senza uno straccio addosso, si pianta ai piedi del letto della sua povera moglie. Zuppa la barba, dai capelli zuppi gli sgrondano goccioloni di mare. Poi si china sul letto inondandosi il viso di lacrime e dice: «Non riconosci, Ceice, mia sciaguratissima moglie? Talmente mi ha sfigurato la morte. Guardami bene, che invece di tuo marito vedrai l'ombra di tuo marito. Le tue preghiere, Alcione, hanno fatto un buco nell'acqua. Sono morto. Smetti di illuderti ch'io possa tornare. Un ventaccio del sud ha sorpreso la nave in mezzo all'Egeo e col suo soffio mostruoso l'ha sbatacchiata e distrutta, e la bocca che non faceva che invocare invano il tuo nome, le onde me l'hanno riempita. Non ti sta parlando qualcuno di poco attendibile, non ti arrivano chiacchiere vaghe. Sono io, l'annegato in persona, a spiegarti che sono morto. Su, alzati, piangi, dai, vestiti a lutto, non mi spedire nel vuoto del Tartaro senza il conforto d'un fiume di lacrime». E Morfeo, come non bastasse, fa una voce che lei non può confondere, è proprio la voce del marito, e le lacrime sono lacrime vere, e i gesti sono i gesti del suo Ceice. Geme e singhiozza Alcione ancora nel sonno e annaspando a due braccia per abbracciare quel corpo, lei non abbraccia che l'aria e fa: «Dove scappi? Aspetta che andiamo insieme». Turbata dalla sua stessa voce e da quella parvenza di marito, si sveglia, si guarda intorno per controllare se quello che ha appena visto c'è ancora. La servitù alle sue grida è accorsa con le torce. Lei, non ritrovando nessuno, si dà pugni in faccia, si strappa le vesti sul petto e se lo ferisce il petto e si strappa i capelli senza nemmeno scioglierli. E a quella che le chiede perché, la sua balia: «Non esiste, Alcione», grida, «non c'è più». Con il suo Ceice è morta anche lei. Risparmiatevi la fatica di consolarla. Se n'è andato dentro un naufragio. L'ho visto e riconosciuto e ho provato a tenermelo stretto con queste mani. Ma lui è svanito. Era un'ombra, ma un'ombra inconfondibile. L'ombra di mio marito. Sì, no, l'espressione non era la solita. Se ci tieni a saperlo, sul viso non aveva il fulgore di sempre. L'ho visto livido, nudo, povera me, col capello fradicio ancora, che stava piantato lì, pover'uomo, proprio lì, e intanto cercava se mai ne restasse una traccia. Era questo, era proprio questo che temevo, che presagivo nel supplicarti di non lasciarmi affidandoti ai venti. O almeno, ricordi, insistevo perché mi portassi dietro, votato com'eri alla morte. Che affare avrei fatto a partire con te, che senza di te non avrei consumato nemmeno un istante di vita e nemmeno la morte ci avrebbe divisi. Così sono morta lontano da dov'ero, sbattuta, inghiottita da acque lontane, in un dove, dove non sono mai stata. Sarei più spietata del mare se aspirassi a tirarla in lungo con questa esistenza e un dolore così mi accanissi a sconfiggerlo. Non mi accanirò, non ti lascio più, povero amore mio. E adesso vengo a tenerti compagnia nel sepolcro, se non uniti in un'urna, uniti nell'iscrizione. Queste ossa non toccheranno le tue, ma si toccheranno i due nomi. Più di tanto non le consente lo strazio, si imbeve di lacrime ogni parola, dal cuore sbalordito si staccano gemiti. Fatto giorno, esce di casa e disperata ritorna al punto di spiaggia da dove lo aveva visto partire. Mentre si attarda a ripetere, è qui che ha sciolto gli ormeggi, è su questa sabbia che mi ha dato gli ultimi baci e di luoghi le ricordano partitamente ogni cosa successa e guardava il mare lontano. Sul piano dell'acqua le par di vedere qualcosa di simile a un corpo. A tutta prima però non capisce bene, ma basta che l'onda lo accosti appena perché, seppure a distanza, le risulti chiaro trattarsi di annegato. Rabbrividisce Alcione e, prendendolo per un corpo disconosciuto, poverino chiunque tu sia, dice, e tua moglie, se c'è, poverina. Spinto dalle onde, si accosta il cadavere, più lei lo guarda, più le svaniscono il cuore e la mente. Oramai talmente si è fatto vicino alla riva che lei non può più non riconoscerlo. È lui, suo marito, è lui, grida Alcione, e strapparsi i capelli, le vesti, la faccia, è tutt'uno. E tendendo le mani a Ceice in un tremito, dice, così, così, mio sposo adorato, così mi ritorni, povero sposo. Sul bordo del mare la mano dell'uomo aveva eretto una diga per frangere l'ira delle ondate e per prevenire il dilagare delle acque. Ci si arrampica sopra, miracolo che ci fosse riuscita, e volava, e battendo l'aria leggera con due ali appena spuntate, rasentava la cresta delle onde, uccello da stringere il cuore. E in volo, la bocca, ridotta un becco sottile, versava un lunghissimo suono che sembra cigolare come un lamento. Appena raggiunto il corpo dissanguato e muto, che fascia le membra che amava tanto con quella primizia di ali, non può che stampargli freddi baci col duro del becco. Però se ne accorge Ceice, se a sollevargli la testa non era il moto delle onde. Se ne discute, ma sì, che li sente quei baci, e grazie al cielo son tutti e due mutati in volatili. Arresi a uno stesso destino, l'amore è rimasto l'amore di sempre. E la fedeltà coniugale fra i due uccelli non è cambiata. Si accoppiano, fanno figli, e nell'arco d'una serena settimana d'inverno Alcione li cova in un nido sospeso alto alto sul mare. In quei giorni le onde son piatte sempre. Eolo controlla i suoi venti che non scappino e ai nipotini garantisce una tavola d'acqua. A vederli che volano insieme sull'ampiezza del mare, un vecchio si commuove di quell'amore che non finisce mai. Un altro, ma forse lo stesso, dice allora: «Anche quello che vedi scivolare sull'acqua con quelle zampette fragili fragili e nel dirlo addita uno smergo dal lunghissimo collo è di sangue reale. E se tu ci tenessi a spuntare la lista degli avi giù giù fino a lui, troveresti in genealogia personaggi come Ilo ed Assaraco e anche Ganimede rapito da Giove, Laomedonte il vecchio e Priamo destinato a vedere la fine di Troia. Fratello del nostro era Ettore, niente di meno, che se non gli fosse toccato da ragazzo uno strano destino, magari lui oggi sarebbe famoso non meno di Ettore, anche se Ettore era figlio di Ecuba e lui di nascosto fu dato alla luce nelle ombre del monte Ida da Alessiroe, figlia a sua volta di Granico, fiume Bicorne. Detestava qualsiasi città. Rifuggendo gli sfarzi di corte, praticava il segreto dei monti e la modestia dei campi. Alle assemblee dei troiani era un caso partecipasse, non avendo peraltro un animo né rozzo né refrattario all'amore. Nei boschi aveva puntato Esperie e un bel giorno la coglie in riva a suo padre il fiume Cebrene, nell'atto di asciugarsi al sole i capelli disciolti sopra le spalle. Se ne accorge la ninfa e fugge come la cerva atterrita fugge il lupo rossiccio o l'anatra di fiume il nibbio che l'abbia sorpresa fuori canneto. La insegue il prode troiano, veloce d'amore lui, veloce lei di paura. Quand'ecco che un serpe nascosto nell'erba aggancia col dente un piede della fuggiasca e le lascia in corpo il veleno. Con la vita finisce la fuga. Abbracciato a quel corpo senza anima, lui grida in delirio: mi pento d'averti inseguito, non immaginavo, raggiungerti non volevo a un simile prezzo. In due ti abbiamo ammazzata, poverina, ferendoti il serpe, io fornendogli il destro, più di lui colpevole io, che per consolarti di questa tua morte ti offro la mia. Ci ho detto, da una scogliera corrosa alla base, dal raschio delle onde, si lancia nel mare. Ma Teti ha pietà di lui e dolcemente ne accoglie l'impatto e lo veste di piume che ancora galleggia. Il regalo della morte non gli è concesso. Si adonta l'amante, vedendosi obbligato a una vita che odia e che all'anima sua s'impedisca di uscire da un'insopportabile nicchia. Con ali improvvise spuntategli sopra le scapole, prende il volo e torna ad abbattersi sulla distesa dell'acqua. Le piume attutiscono il colpo. Esaco, esasperato, si inabissa nel mare, tentando di morire in un modo o nell'altro. Sottile è sottile d'amore. Esili nelle giunture alle zampe, esile il collo, la testa lontana dal corpo. Ama l'acqua dove si immerge e per questo lo chiamano smergo. Ignorando che Esaco fosse vivo ancora e con tanto di ali, Priamo suo padre piangeva. Oggetto di inutili esequie, Ettore e gli altri fratelli gli intestarono un grande sepolcro. Non presenzia al tristissimo ufficio Paride, il quale peraltro è sul punto di immettere in patria una moglie rapita e una lunga guerra, braccato com'è da un migliaio di navi, per non parlar della lega di tutte le genti di tutta la Grecia. E non perderebbe tempo la vendetta se venti furiosi non rendessero impraticabile il mare e se la Beozia in Aulide non trattenesse la flotta pronta a partire. Conforme l'uso dei padri, a Giove allestiscono un rito, ma appena le fiamme sull'ara si rendono incandescenti, i Danai vedono un drago blu cupo che si attorciglia a un platano, proprio a due passi da dove si avvia la funzione. In cima all'albero c'era il nido di 8 uccellini e il serpente con quella boccaccia se li inghiotte tutti con tutta la mamma che svolazzava disperata intorno all'eccidio. Sbalordisce la truppa, ma il figlio di Testore, grande lettore del futuro, Calcante, fa: «Vinceremo, ragazzi, allegria, Troia cadrà, ma l'impresa sarà lunga e sarà laboriosa», e interpreta i 9 volatili per 9 anni di guerra. Il rettile, attorcigliato com'è nel verde dei rami, si fa di sasso e nel sasso perpetua la sua serpentezza. Ma Nereo continua a infuriare sulle acque della Beozia, ritardando la spedizione, e c'è chi suppone Nettuno propenso a salvare le mura che ha fatto con le sue mani. Non Calcante, figlio di Testore. Lui ben sa che a sedare la collera di Diana la Vergine serve d'un'altra Vergine il sangue, e lo dice chiaro. Ma quando il pubblico bene ha prevalso sulla pietà, sul padre il re, e fra preti in singhiozzi si presenta all'altare, disposta a versare sangue illibato, Ifigenia, si commuove la dea. In un manto di nebbia la sequestra e nel mezzo del rito, nel tumulto delle preghiere, muta in cerva, a quel che si dice, la Vergine Micenea. Allora, tranquillizzata da una vittima più pertinente, Diana, e con la sua rabbia, svanita la rabbia del mare, salpano i 1000 vascelli col vento in poppa, ed in capo a una serie di prove ormeggiano sulla costiera di Frigia. C'è un luogo al centro del mondo, giusto al confine dei 3 regni, fra l'acqua, la terra e le regioni del cielo, di dove si scorge ogni cosa, per quanto avvenga lontano, e dove non c'è notizia che non trovi orecchio a captarla. Lì abita lei, la Fama, che ha messo casa su un picco, dotandola di centinaia di ingressi e di 1000 pertugi, ma senza una porta che una a impedirne l'accesso. Così è aperta di notte e di giorno, ed è tutta fatta di bronzo sonoro e vibra tutta di voci, registra e ripete. Lì dentro nessuno che dorma, un angolo di silenzio non c'è, ma non senti baccano, senti solo un sommesso brusio, più o meno quello prodotto da onde remote in risacca o quel brontolio che fanno di coda gli ultimi tuoni sballottati da Giove l'uno contro l'altro nel nero dei nuvoli. L'ingresso è una ressa, gente che viene, gente che va. Per qualche notizia attendibile, 1000 false se ne diffondono e senti parole confuse svolazzare da tutte le parti. Ce n'è che riempion di chiacchiere orecchi in ozio, ce n'è che divulgano in giro il sentito dire, e così si dilata la quota di storie inventate, ognuno aggiungendo del suo. Lì vigono la dabbenaggine, l'avventatezza, lì vige l'inconsulta euforia, i terrori lì sgranano gli occhi, lì si annidano le rivolte e l'insinuazione gratuita. Lei di persona, la Fama, nota quanto succede nel cielo, sul mare e per terra e controlla l'intero dell'universo. A segnalare l'arrivo delle navi greche con tanto d'esercito è lei. Non piombano inaspettati i nemici. Disposti lungo la spiaggia, i teucri fan fronte allo sbarco e tu, sventurato, per primo cadi sotto la lancia di Ettore, Protesilao. La battaglia costa caro ai Danai. L'avvio della strage dà la misura della grandezza di Ettore. I Frigi, dal canto loro, sperimentano la potenza dei Greci con fiumi di sangue. Il litorale Sigeo è già rosso. Cicno, il bel figlio di Nettuno, ha fatto già scempio di invasori. Achille già incombe sul carro e a colpi di lancia, lancia di legno del Pelio, abbatte interi reparti. Fra i ranghi nemici non cerca che Ettore o Cicno, e cercando si imbatte in Cicno. Per Ettore 10 anni aspettare dovrà. Allora, incitando i cavalli aggiogati su quelle criniere fiammanti, punta col carro contro il nemico, brandisce un suo giavellotto con tutta la forza del braccio e, ragazzo, gli urla, chiunque tu sia, consolati della tua morte, perché morrai massacrato per mano del tessalo Achille. Così il Pelide, una lancia enorme, tien dietro alla voce. Ma per quanto scagliata a bersaglio da mano infallibile, l'asta non sortisce il minimo effetto con la sua punta di ferro, che quasi fosse smussata, rimbalza sul petto di quello. «Figlio di Dea», dice quello, «ti conosco per chiara fama. Come mai ti stupisci così di non avermi ferito?» Si stupiva, in effetti. «Quest'elmo che ho in testa, con tanto di rosso pennacchio equino, lo scudo che porto con la sinistra, non mi servono, credimi, a nulla. Stanno lì per figura, la stessa ragione per cui gira armato anche Marte. Toglimi pure di dosso questa corazza e vedrai se non resto comunque illeso. C'è differenza fra esser figlio di una Nereide o di chi impera su Nereo, le sue figlie e tutto l'oceano». Ciò detto, scaglia una lancia destinata a piantarsi nel centro dello scudo di Achille, forando il bronzo e ben 9 strati di pelle di bove, fermandosi però contro il 10° disco. Estrae la lancia che trema ancora l'eroe e con tutta la forza la scaraventa di nuovo il corpo del nemico rimane illeso. E nemmeno un terzo proiettile intacca il corpo che Cicno espone ostentandolo quasi. S'infuria Achille Pelide, come il toro che in mezzo all'arena del circo s'avventa con corna orrende sul drappo di porpora che lo provoca quando si accorge di incornare il vuoto. Controlla allora se al giavellotto non si fosse staccata la punta. No, è ben piantata nel legno. «Vuol dire che il braccio mi batte la fiacca, pensa, ed ha perso d'improvviso la forza di sempre, che non m'è mancata di certo per smantellare le mura di Lirnesso, né tantomeno la volta che stavo affogando nel sangue Tenedo e Tebe, città del padre di Andromaca, o quando il Caico scorreva imporporato di strage e Telefo della mia lancia i pregi saggiò per 2 volte. Qui stesso, a veder sulla spiaggia le cataste di morti, diresti che il braccio di Achille abbia fatto del suo meglio e che ancora ne faccia.